48. Joseph ricordò la prima volta che aveva visto Philippe, un ragazzo spaurito in uniforme, forse bianco o forse indiano. Anche Joseph era un ragazzo, troppo giovane per combattere. Molly lo aveva portato con sé al lago George. Doveva aiutare le donne a curare i feriti, correre a prendere l'acqua per lavare le piaghe o rum per stordire chi aveva una palla incastrata nella carne, aiutare a sorreggere chi camminava a fatica. Quel giorno aveva visto Sir William tornare dal campo in lettiga. Da chi lo scortava aveva appreso la notizia. Hendrik era morto. Poco dopo, in piedi accanto a Molly, aveva assistito all'arrivo del convoglio di prigionieri, tra le grida di collera e dolore dei guerrieri e i gemiti di chi veniva trascinato e preso a calci. Il ragazzo era spacciato. Joseph era certo che il suo sangue avrebbe bagnato l'erba. Invece sua sorella era scattata in avanti, orgogliosa e furente. Aveva sfidato i guerrieri, li aveva svergognati, fatti sentire stupidi e fuori dalla storia delle sei nazioni. A un certo punto Joseph si era visto indicare. Molly lo aveva usato come argomento. «Questo ragazzo ha l'età di mio fratello». Quel giorno la nazione adottava il futuro Grand Diable. La vita di Joseph cambiava per sempre. Il mondo si era aperto. Una bocca piena di ulcere e zanne guaste aveva inghiottito Philippe. Joseph lo sentiva. Il proiettile era per lui. La nota di dolore risuonava tra gengive, tempie e palle degli occhi. Nelle orecchie rimbalzavano ordini sovrapposti, biascicati e persi nell'eco, sempre più privi di senso. Intorno a chi moriva, tutto mutava in fretta. Joseph sarebbe vissuto, avrebbe avuto tempo, si sarebbe intrattenuto coi fantasmi, tempo di pensare, ricordare, incolparsi, scagionarsi e vivere al posto dei morti, vivere, perché così si vive o si muore, e chi è in vita si preoccupa dei vivi, di chi è rimasto. Sullivan incombeva, dovevano mettere insieme una lettiga per il corpo di Philippe e raggiungere la colonna di superstiti. Cristina, Isaac, Margaret, salvare tutti, lasciare quel mondo impazzito. «Noi restiamo qui, Thayendanegea», disse Rognateca e indicò i prigionieri. «C'è qualcosa che va fatto da tanto tempo, lo sai». «Va fatto dall'inizio di questa storia», aggiunse Canenonte. «Sullivan sta arrivando», rispose Joseph. «Non c'è tempo». «Per scortare i profughi, bastate tu e Kanatawakon», disse Rognateca. Canenonte sorrise. «Ci rivedremo dove ci attende il gran diavolo, un giorno». Joseph strinse gli occhi. Risucchiò aria dal naso, incassò il collo nelle spalle come se facesse freddo, riaprì gli occhi e disse «E sia». L'uomo che si era presentato come Nathaniel Gordon, seduto a terra coi polsi legati dietro la schiena, guardò Joseph con occhi pieni di suppliche. «Io posso dirti il nome di chi ha sparato al tuo amico, Joseph Brent. È un tuo compaesano, Klug, maledetto il giorno che quel tedesco si è unito a noi». I guerrieri trasalirono. Occhiate rimbalzarono da un volto all'altro. Joseph stritolò aria nei pugni, fino a sentire dolore ai polsi. «Tutto trova il proprio posto, Thayendanegea», disse Rognateca. Poi si girò verso Gordon. «Nulla di quanto ci dirai ti salverà la vita. Tu e i tuoi amici dovete pagare per molto più di questo». Gordon mandò un lamento e si afflosciò come un otre bucato, svuotato di ogni energia. «Ti prego, Joseph Brent». Joseph lo fissò con disprezzo. «Non avete fatto nulla per voi stessi. Come potrei io fare qualcosa per voi?» Canenonte e Rognateca piangevano e ridevano, si coprivano la faccia con le mani, si davano manate sulla schiena. Sembravano usciti di senno, eppure si ubriacavano con metodo, con perizia ravvivavano le fiamme e per quanto rum bevessero, tornavano sempre a torturare il prigioniero legato a testa in giù vicino al fuoco. Ogni lembo di pelle asportato aveva un nome. «Questo è per Samuel Waterbridge. Questo è per Roya Takario. Questo è per Saki Enakenta. Questo è per Rona Tarionte». Il Delaware non gridava, nemmeno un mugugno, scalpato, scorticato, braci accese e cenere calda sulla carne esposta. Gli altri dovevano guardare, calci e schiaffi se chiudevano gli occhi. Pregavano come bambini. Ciascuno di loro si era vomitato e pisciato e cagato addosso. Gordon non aveva più lacrime da piangere. «Hai sentito che bella frase ha detto Thayendanegea?» fece Canenonte, ridendo e mostrando i denti. «Avrei voluto dirla io. Non avete fatto nulla per voi stessi? Come potrei io fare qualcosa per voi?» «Thayendanegea è un grande guerriero», commentò Rognateca. «E noi? Siamo grandi guerrieri, noi?» domandò ancora Canenonte. Orognateca non rispose. Per l'ennesima volta si avvicinò al prigioniero. Alzò il coltello, sollevò e asportò un lembo di pelle. «Questo è per Orognateca!» Ne tagliò subito un altro. «Questo è per Canenonte!» Risate, singulti e preghiere, crepitare di fiamme.